America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. NATO is moving warships and support vessels near Ukraine. Ucraina, me ne abbiamo parlato ieri. Vi avevo anticipato che la situazione non prometteva bene, soprattutto nel possibile scontro tra l'esercito ucraino che voleva riprendere certe postazioni occupate da militanti nazionalisti russi e questi militanti nazionalisti russi che ovviamente si proponevano di resistere. Che è successo? L'Ucraina ha mandato il suo esercito e i carri armati sono stati prontamente presi, sequestrati dai simpatizzanti, dai militanti russi. Ora, come vi dicevo ieri, che siano dei simpatizzanti russi che si improvvisano guerriglieri o che siano dei soldati russi travestiti, beh, questo per ora non lo sappiamo, sospettiamo forse che quello possa essere il caso. Di certo noi sappiamo che l'armata ucraina non è di primo pelo. Il fatto che alcune colonne dell'esercito ucraino siano state sconfitte così platealmente, beh, deve farci riflettere. La situazione dunque resta difficile. Oggi gli incontri a Ginevra, la NATO che si mobilita, che vuole rafforzare gli schieramenti di sue truppe sui confini orientali per dare sicurezza, garanzia a quei paesi che sono entrati recentemente a far parte dell'Alleanza Atlantica. E ricorderete che c'è l'articolo 5 che dice che se uno Stato, se una nazione viene attaccata, beh, quell'attacco è come se fosse un attacco contro tutti. In questo contesto che avrebbe dovuto dare preoccupazione al mercato, invece il mercato è andato in controtendenza, è andato bene, è aumentato. Sentiamo. Allora, che è successo? Mentre arrivavano queste notizie così poco incoraggianti dall'Ucraina, l'indice Dow Jones aumentava dell'1%, è salito a quota 16.424, il Nasdaq aumentava dell'1,29% a quota 4.086, l'S&P 500 dell'1,5%, quota 1.862. E che cosa è successo? Non c'è più paura per quel che sta capitando in Ucraina? No, no, quello no, semmai prevale l'idea che a un certo punto le cose si stanno, come dire, sistemando nel bene o nel male, che in un modo o nell'altro questa operazione russa avrà un suo termine e se l'Ucraina dovrà perdere il territorio lo perderà e sarà uno smacco per l'Occidente, ma quantomeno si archivierà una pagina di storia. E dunque sul fronte militare non ci si aspetta un'escalation destabilizzante. Invece su quello economico, beh, su quello economico ci sono state delle notizie positive, interessanti, a partire dalle dichiarazioni di ieri di Janet Yellen, il presidente della Federal Reserve di New York, il governatore della Banca Centrale Americana. The situation in the banking industry at this point is banks look to lend. Ecco, la Yellen ha dato generalmente un messaggio rassicurante, molto rassicurante al mercato. Ha detto che è rassicurata dal contesto di bassa inflazione che secondo lei resterà nel prevedibile futuro e che continuerà ad essere molto attenta a qualunque dato indicativo di un possibile potenziale rallentamento dell'economia. È un messaggio rassicurante perché i mercati temevano che la Yellen potesse premere sul freno, potesse premere in modo addirittura brusco sul freno per nuove immissioni di liquidità sul mercato americano. Secondo me, alla fine la Banca Centrale procederà gradualmente con la sua manovra di rientro dalle operazioni di intervento speciali, quelle del QE3, le manovre di intervento quantitativo su titoli dello Stato, su titoli immobiliari, ma questo rientro si sta rivelando un rientro morbido, anche proprio per le dichiarazioni di ieri della Fed. Ecco, ha parlato all'Economic Club di New York. Che cos'è l'Economic Club di New York? Beh, questa associazione di grandi personalità della finanza, del mondo dell'economia e del mondo della politica americani, soprattutto newyorkesi, che si riuniscono una volta ogni tanto e si riuniscono in genere, devo dire, all'Hilton Hotel, chissà perché, ma è sempre lì, perché c'è un salone enorme di grande capienza che può accogliere 500-600 persone e dunque si raccolgono queste persone per ascoltare un importante protagonista dell'economia. Qualche tempo fa abbiamo avuto Mario Draghi, oggi abbiamo avuto il debutto della Yellen. Un debutto che è andato bene, non soltanto per il messaggio rassicurante per i mercati dopo un po' di incertezze, ma anche per una congiunzione astrale positiva dopo alcuni risultati rassicuranti sul fronte dei profitti trimestrali, che è aumentato. Yahoo, ad esempio, del 6,26%, questo grazie anche a un investimento del 24% in Alibaba, che ha fatto molto molto bene. Bank of America non è andata bene. Visa, invece, è andata bene, per restare sui finanziari, più 2,6%. Una notizia che ha dato anche sicurezza al mercato è arrivata dalla Cina. L'economia cinese è cresciuta del 7,4%. Per noi questi ritmi di crescita sono non solo impensabili, ma irraggiungibili ormai da molti, molti decenni. Eppure questo ritmo di crescita cinese ha una doppia valenza. Cioè, da una parte è stato il tasso di crescita minimo negli ultimi 18 mesi, dunque un po' di preoccupazione comunque alla data. Dall'altra, gli analisti si aspettavano, come dire, un aumento molto più contenuto di questo. Quindi il fatto che ci sia stato un aumento al di sopra delle aspettative ha generato ottimismo sul fronte dei consumi, sul fronte dell'integrazione delle attività economiche internazionali, che inevitabilmente beneficiano poi anche l'economia americana, il tasso di crescita americano e sperabilmente anche quello europeo. Un messaggio di critica alla Cina è venuto dal rapporto sui cambi del Tesoro, che è stato divulgato ieri. Il Tesoro è stato leggermente più prudente rispetto al passato, ma ha pur sempre segnalato che la Cina la deve smettere di fare marcia indietro su certi impegni che la portavano a far flottare lo yuan, di modo che potesse avere una valutazione trasparente di mercato. Ci sono stati interventi. Di questi interventi il Tesoro americano si è lamentato. L'auspicio resta che presto o tardi, ma comunque inevitabilmente in tempi relativamente brevi, debba poter riflettere un valore di mercato. Deve essere lasciata libera di flottare a seconda di quelle che sono le posizioni che gli operatori di mercato ritengono sia la più coerente con i fenomeni sottostanti, cioè i fenomeni economici rappresentativi della valuta cinese. Resta il fatto che rispetto al passato il messaggio americano è leggermente più morbido. Beh, vuol dire che forse le cose si stanno muovendo più in sincronia, quantomeno sul fronte economico, di quanto potessimo immaginare. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sempre difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di economia, di banche, di crescita. Per restare in tema, voglio proporvi oggi dei Pink Floyd. Money, che dicono i Pink Floyd in questa canzone che parla di soldi, di danaro? Dico, beh, il danaro è sempre una gran soddisfazione, il danaro lo abbiamo grazie a dei buoni posti di lavoro, il danaro è grande, è una cosa grande, il danaro è carburante, carburante per andare avanti. Con un avvertimento: il danaro è tutto quello, ma il danaro può anche diventare criminalità, può anche diventare dipendenza. Money, get away. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.